Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Irrequieto mi diressi a Proravia. Non avevo bisogno degli occhi per camminare con sicurezza completa sul casseretto del mio sfortunato primo comando. Ogni centimetro quadrato dei suoi ponti mi stava impresso in mente in modo indelebile, persino con le venature ed i nodi del tavolo. Eppure, tutto a un tratto, investii in pieno qualcosa e caddi lungo disteso, faccia e mani in avanti. Era qualcosa di grosso e di vivo. Non un cane, come una pecora piuttosto. Ma non c'erano animali in nave. Era un orrore supplementare e fantastico al quale non ero in grado di resistere. Mi si rizzarono i capelli in testa mentre mi alzavo atterrito, non come si atterrisce un uomo quando il suo giudizio, la sua ragione tentano ancora di resistere, ma atterrito in modo completo, illimitato e, per così dire, ingenuo come un bambino. La vedevo, quella cosa. La tenebra, di cui tanta parte poc'anzi mi s'era tramutata in acqua, si era un poco diradata. Ecco lì la cosa. Ma non mi saltò in mente che il signor Burns stesse uscendo carponi dalla scaletta di Boccaporto, se non quando cercò di alzarsi, ed anche allora, a tutta prima, mi si presentò l'idea di un orso. Ringhiò come un orso quando lo afferrai a pieno corpo. Era infagottato in un enorme cappotto invernale di lana, il cui peso era eccessivo per le sue condizioni indebolite. Sentivo appena quello stecco incredibilmente sottile che era il suo corpo, perso nel grosso spessore della stoffa, ma il suo ringhio aveva profondità e consistenza. Dannata nave muta, piena di pusillanimi, sempre in punta di piedi. Non erano più capaci di pestare i piedi con decisione mentre bracciavano? Non c'era più un solo miserabile marinaio d'acqua dolce in tutto il branco capace di alzare un grido durante una manovra? «È inutile nascondersi, capitano», mi aggredì direttamente. «Non potete svignarvela da quel vecchio farabutto d'un assassino. Non è il modo giusto. Dovete andargli addosso arditamente, come ho fatto io. L'ardimento vi occorre. Mostrategli che non avete paura dei suoi dannati trucchi. Scatenate un bel putiferio all'antica». «Santo cielo, signor Burns!» dissi con ira. «Con chi ce l'avete? Che cosa vi salta in mente di venire in coperta in questo stato?» «Questo è nient'altro, ardimento, l'unico modo di spaventare quel vecchio miserabile briccone!» Lo spinsi, senza che cercasse di ringhiare, contro la battagliola. «Tenetevi bene qui!» dissi rudemente. Non sapevo che farmene di lui. Lo lasciai rapidamente per andare da Gambrill, il quale aveva mandato un debole richiamo per dire che gli sembrava di sentire un po' di vento a riva. Effettivamente, anche le mie orecchie avevano colto un debole sbattere di vele bagnate, molto in alto, il tintinnio di una scotta allascata. Tali rumori erano sinistri, molesti, allarmanti nella calma piatta che mi circondava. Mi si affollarono nella memoria tutti gli esempi di cui avevo sentito parlare a proposito di navi che avevano perduto gli alberi di gabbia portati via netti quando in coperta non c'era tanto vento da spegnere un fiammifero. «Non vedo le vele alte, capitano», dichiarò Gambrill con voce tremula. «Tieni fermo il timone. Andrà bene. dissi con tono fiducioso. Il povero uomo aveva perso il sangue freddo, né io stavo molto meglio. Era il momento culminante della tensione, e adesso seguì senza trapasso la sensazione che la nave andasse avanti come da sola sotto i miei piedi. Udii chiaro il sibilo del vento a riva, i lievi scricchiolii dell'alberatura messa sotto sforzo, molto prima che il più lieve soffio si facesse sentire sulla mia faccia rivolta a poppa, ansiosa e incapace di vedere nulla, come quella di un cieco. Improvvisamente, una nota risonante più forte ci riempì le orecchie. La tenebra cominciò a scorrere intorno ai nostri corpi, con un'intensa sensazione di freddo. Eravamo entrambi scossi da brividi, Gambrill e io, negli indumenti sottili di cotone, inzuppati e appiccicati al corpo. Gli dissi: «Ora va bene così, marinaio. Non hai da far altro che tenerti il vento alle spalle. Senza dubbio puoi farcela. Un bambino saprebbe governare questa nave con mare calmo». Mormorò: «Sì, un bambino sano». Ed io mi vergognai di essere stato dimenticato dalla febbre che aveva depredato della sua forza ognuno a bordo salvo me, affinché fosse più amaro il mio rimorso, più acuto il sentimento di non essere degno e più pesante da sopportare il senso di responsabilità. La nave aveva preso un forte abbrivio quasi subito sull'acqua tranquilla. La sentivo scivolare senza altro rumore che un fruscio misterioso lungo i bordi. A parte ciò non aveva alcun moto, né beccheggio né rollio. Era una stabilità scoraggiante che ormai durava da 18 giorni, perché non avevamo mai avuto vento adatto a provocare la minima agitazione del mare. La brezza rinfrescò all'improvviso. Pensai fosse tempo di allontanare il signor Burns dalla coperta. Quell'uomo mi preoccupava. Lo consideravo abbastanza pazzo da mettersi in giro per la nave e rompersi una gamba o andare a finire in mare. Fui veramente lieto di scoprire che aveva avuto il buon senso di rimanere aggrappato laddove lo avevo lasciato. Però stava minacciosamente borbottando tra sé. La cosa era davvero scoraggiante. Osservai con intonazione più naturale: «Non abbiamo avuto mai tanto vento da quando abbiamo lasciato la rada». «Ed è anche piuttosto fresco», brontolò assennatamente. Era un commento da perfetto marinaio e sano di mente. Ma aggiunse subito: «Era ora che venissi in coperta. Ho risparmiato le mie forze per questo, solo per questo. Comprendete, capitano?» Dissi di sì e continuai suggerendo che adesso sarebbe stato consigliabile per lui andare da basso a riposare un poco. Rispose con un indignato: «Andare da basso? No, di sicuro, capitano. C'era da stare allegri». Egli rappresentava per me un terribile fastidio e di colpo si mise a discutere. Nell'oscurità ne percepivo la folle agitazione. «Voi non ci sapete fare, capitano. E come potreste? Tutto questo bisbigliare, andare in giro in punta di piedi, non va bene. Voi non potete sperare di evitare una brutta bestia così astuta e sveglia come era lui. Non lo avete mai sentito parlare? Da farvi rizzare i capelli in capo? No, no, non era pazzo. Non più pazzo di me. Era soltanto malvagio. Vi dico io cos'era. Né più né meno che un assassino e un ladro, sino in fondo all'anima. E credete che adesso, solo perché è morto, sia cambiato? Lui? No, di certo. La sua carcassa si trova a 100 braccia di profondità, ma egli è sempre lo stesso, a 8 gradi e 20 primi di latitudine nord». Sbuffò con aria di sfida. Mentre delirava, mi accorsi con stanca rassegnazione che la brezza si era fatta più leggera. Intanto egli riattaccava: «Avrei dovuto buttare quel mascalzone fuori bordo come un cane. È stato solo per riguardo dell'equipaggio. E pensare che ho dovuto leggere il servizio dei defunti sopra una bestia simile. Il fratello che ci ha lasciati. mi sarei messo a ridere. Era questa la cosa che non sopportava. Suppongo di essere stato l'unico che se l'è sentita di ridergli sul muso. Quando si ammalò, questa era la cosa che faceva paura a quel fratello che ci ha lasciati. Si fa prima a chiamare fratello uno squalo. La brezza cadde tanto all'improvviso che la briva della nave fece sbattere pesantemente le vele bagnate contro l'albero. Il sortilegio della calma piatta ci aveva nuovamente afferrati. Non pareva esservi scampo. «Ma guarda!» esclamò il signor Burns con voce sorpresa. «Ancora calma!» Mi rivolsi a lui come se fosse stato sano di mente. «È quanto ci capita da 17 giorni, signor Burns», dissi con intensa amarezza. «Un soffio, poi bonaccia, e fra un istante vedrete che la nave virerà in poppa e metterà la prua fuori rotta, verso il diavolo sa dove». «Quel vecchio diavolo che si nasconde», strillò con voce stridula, e scoppiò in un riso fragoroso, quale mai avevo udito in precedenza. Era una risata di provocazione, di burla, con un tono acuto di sfida da far rizzare i capelli in capo. Indietreggiai, completamente sconcertato. Istantaneamente vi fu del movimento sul cassero, dei mormorii costernati. Una voce ansiosa gridò nel buio sotto di noi. «Chi è che è ammattito?» Forse pensavano che fosse il loro capitano. Precipitarsi non è la parola adatta alla velocità di cui erano in grado quei poveri ragazzi, ma in un tempo di stupefacente brevità ogni uomo ancora capace di camminare ritto sulla nave aveva trovato modo di arrivare su quel casseretto. Gridai loro: «È il secondo, prendetelo due di voi». Mi aspettavo che quella commedia si concludesse con una specie di sinistra colluttazione, ma il signor Burns troncò netto il suo riso di derisione e si rivolse violentemente verso gli altri, strillando: «Ah, voi altri, figli di cani, avete ritrovato la lingua, no? Vi credevo muti. Ebbene, su, ridete! Ridete, vi dico! Su, tutti insieme, uno, due, tre, ridete!» Seguì un istante di silenzio. Di silenzio tanto profondo che sul ponte si sarebbe sentito cadere uno spillo. Poi la voce imperturbata di Ransom pronunciò garbatamente le parole: «Credo che sia svenuto, capitano». Il gruppetto impietrito degli uomini si mosse con sommessi mormorii di sollievo. «Lo tengo per le braccia. Qualcuno lo prenda per i piedi». Sì, era un sollievo. Egli era ridotto al silenzio per un po'. Per un po'. Non avrei retto a un altro scroscio di quel folle riso. Non avrei retto, di sicuro. E proprio in quell'istante, Gambrill, l'austero Gambrill, ci offrì un'altra esibizione vocale. Si mise a cantilenare per avere il cambio. La sua voce gemeva pietosamente nelle tenebre. «Qualcuno a poppa, non ce la faccio più. La nave sta per muoversi di nuovo e io non posso». Mi precipitai a poppa io stesso e fui investito da una violenta raffica che l'orecchio di Gambrill aveva sentito venire di lontano e che gonfiò le vele dell'albero di maestra, facendole sbattere ripetutamente con un rumore soffocato, cui si mescolava il gemito sordo dell'alberatura. Feci appena in tempo ad afferrare la ruota, mentre il francesino che mi aveva seguito acchiappava Gambrill che stava cadendo. Lo tirò in disparte, lo ammonì a rimanere fermo dove stava e poi se ne venne a darmi il cambio, chiedendo calmo. «Come debbo governare, capitano?» «Dritto in fil di ruota, per il momento. Tra poco ti faccio avere un fanale». ma dirigendomi all'avanti incontrai Ransom che portava su il fanaletto di rispetto della chiesuola. Quell'uomo notava tutto, badava a tutto, dovunque andava spandeva intorno a sé conforto. Incrociandomi osservò con tono rasserenante che stavano uscendo le stelle. Era vero. La brezza stava spazzando la fuliggine del cielo, irrompendo nel silenzio indolente del mare. Nella spaventosa barriera di calma che ci aveva tenuti prigionieri tanti giorni come dannati, si era aperta una breccia. Lo sentivo. Mi lasciai cadere sul banco dello steriggio. Un leggero orlo bianco di spuma, sottile, molto sottile, si ruppe lungo il bordo. Il primo da secoli. Da secoli. Mi sarei messo a gridare evviva, non fosse stato per il senso di colpa che aderiva segretamente a tutti i miei pensieri. Ransom mi si fermò davanti. «Che ne è del primo ufficiale?» chiesi ansiosamente. «Ancora privo di conoscenza?» «Beh, capitano, è una cosa strana.» Ransom evidentemente era perplesso. «Non ha detto una sola parola e ha gli occhi chiusi. Ma a me sembra più che altro immerso in un sonno profondo.» Accettai questo parere come il meno fastidioso, o comunque come il meno preoccupante. Svenuto o profondamente addormentato, il signor Burns, per il momento, doveva essere lasciato in pace. Ransom osservò all'improvviso. «Credo che abbiate bisogno di un cappotto, capitano.» «Credo di sì», sospirai. «Ma non mi mossi. A mio parere mi occorrevano soprattutto gambe e braccia nuove, perché le mie sembravano fuori uso, come logorate. Non mi dolevano nemmeno. Ma mi alzai in piedi lo stesso per infilare il cappotto quando Ransom lo portò su. E quando suggerì che adesso era meglio portare Gambrill a prua, dissi: «Benissimo, ti aiuto a portarlo giù in coperta.» Scoprì che ero anche capace di dare quell'aiuto. Tenemmo Gambrill sollevato in mezzo a noi due. Egli cercò virilmente di aiutarsi anche da sé, ma non smise di raccomandarsi lamentosamente. «Non mi mollerete arrivati alla scala, vero?» Il vento si fece sempre più teso e spirò in direzione costante, rigorosamente costante. All'alba, per mezzo di cauti spostamenti del timone, riuscimmo a far sì che i pennoni del trinchetto si bracciassero in croce da soli. Il mare continuava ad essere calmo e poi provvedemmo a tesare i cavi. Dei quattro uomini che erano con me la notte prima, ne avevo ora soltanto due. Non mi informai degli altri. Avevano ceduto. Speravo solo temporaneamente. I diversi lavori a prua ci tennero occupati per ore. Tanto lentamente si muovevano i due uomini che erano con me e tanto spesso dovevano riposarsi. Uno di loro commentò che ogni maledetta cosa su quella nave pareva pesare 100 volte di più del proprio peso. Fu questa l'unica lamentela che venne pronunciata. Non so come avremmo fatto senza Ransom. Lavorò con noi, anch'egli in silenzio, con un sorrisetto cristallizzato sulle labbra. Di quando in quando gli mormoravo: «Va adagio, non fare sforzi, Ransom», e ricevevo in cambio una rapida occhiata. Quando tutto il possibile per avere una certa sicurezza fu compiuto, egli scomparve nella sua cucina. Più tardi, recandomi all'avanti per dare un'occhiata in giro, lo scorsi attraverso la porta aperta. Era seduto ritto sul cassone di fronte ai fornelli, con la testa appoggiata all'indietro contro la paratia. Aveva gli occhi chiusi. Le sue abili mani tenevano aperto il davanti della sua sottile camicia di cotone, denudando tragicamente il petto robusto che si sollevava in dolorosi e stentati respiri affannosi. Egli non mi udì. Mi ritirai piano e andai direttamente sul casseretto a rivelare il francesino, che ormai aveva l'aria di sentirsi molto male. Mi diede la rotta con tutte le dovute regole e cercò di allontanarsi con passo baldanzoso, ma già prima di uscire dalla mia visuale barcollò ampiamente due volte. Ed allora rimasi lì, da solo, a governare la mia nave, che correva col vento in poppa, beccheggiando di quando in quando e persino rollando un poco. Ransom non tardò a comparirmi davanti con un vassoio. La vista del cibo mi rese di colpo affamato. Egli prese la ruota mentre io mi sedevo sul carabottino di poppa a fare colazione. Questa brezza sembra abbia rovinato l'equipaggio, mormorò. Li astesi tutti. Sì, dissi. Credo che tu e io siamo gli unici uomini validi che ci siano a bordo. Il francesino dice di avere un po' di scatto. Non so. Non può essere granché, continuò Ransom col suo sorriso pensoso. Bravo ometto quello. Ma supponiamo, capitano, che questa brezza giri quando ci troviamo vicino a terra. Come facciamo con la nave? Se il vento gira con un violento salto dopo che ci saremo avvicinati a terra, la nave andrà in costa, o resterà disalberata, o tutte e due le cose. Non potremo farci nulla. Adesso è lei che va avanti e ci porta con sé. Noi possiamo solo governare. È una nave senza equipaggio. Sì, tutti stesi, ripete quieto Ransom. Ogni tanto do loro un'occhiata, ma posso fare ben poco. Io, la nave e tutti a bordo. Siamo molto in debito con te, Ransom, dissi con calore. Fece come se non mi avesse sentito e governò in silenzio finché fui pronto a rilevarlo. Mi cedette la ruota, raccolse il vassoio e come colpo finale mi informò che il signor Burns si era svegliato e pareva avere l'intenzione di salire in coperta. Non so come impedirglielo, capitano. Non posso fermarmi tutto il tempo da basso. Era evidente che non poteva farlo. Ed infatti il signor Burns venne in coperta trascinandosi penosamente fino a poppa nel suo enorme cappotto. Lo guardai venire con legittimo timore. L'averlo d'attorno a sragionare sulle astuzie di un morto, mentre dovevo governare una nave che correva con furia ed era carica di morenti, costituiva una prospettiva piuttosto paurosa. Ma le sue prime frasi furono molto assennate, tanto nel contenuto che nel tono. All'apparenza non serbava ricordo della scena notturna, e se lo serbava, non si tradì neanche una volta. E neppure parlò molto. Rimase seduto sullo steriggio, dapprima con un aspetto molto malato, ma quel vento fresco, che aveva abbattuto l'ultimo residuo del mio equipaggio, ad ogni raffica sembrava infondergli una nuova provvista di vigore. Migliorava quasi a vista d'occhio. Per saggiare il suo stato mentale, feci apposta allusione al defunto capitano. Con mio grande piacere vidi che il signor Burns non mostrava un eccessivo interesse per l'argomento. Ripeté la vecchia storia dell'iniquità di quel vecchio ribaldo con un certo brio vendicativo e poi concluse inaspettatamente. Credo proprio, capitano, che abbia cominciato a partire di cervello almeno un anno prima che morisse. Che meravigliosa guarigione! Non potei tributarle proprio tutta l'ammirazione che meritava perché dovevo dedicare ogni attenzione a governare. A paragone dell'inerzia disperante dei giorni precedenti, questa era una velocità vertiginosa. Due baffi di spuma fluivano dai masconi. Il vento cantava con uno strenuo accento che in altre circostanze avrebbe significato per me tutta la gioia di vivere. Ogni volta che la vela di maestra, già imbrogliata, si metteva a sbattere cercando di scoppiare a brandelli nelle sue stesse manovre, il signor Burns mi guardava con apprensione. «Che cosa vorreste che facessi, signor Burns? Non possiamo serrarla né stabilirla. Vorrei solo che andasse a pezzi da sola per non pensarci più. Questo maledetto fracasso mi esaspera». Il signor Burns si torse le mani e improvvisamente gridò. «Come farete a far entrare la nave in porto, capitano, senza uomini per manovrare?» «Io non glielo seppi dire». Bene, circa 40 ore dopo, la cosa fu possibile. In virtù del potere d'esorcismo esercitato dall'orribile risata del signor Burns, quello spettro maligno era stato fugato, il maleficio spezzato, tolta la maledizione. Ora eravamo tra le mani di una provvidenza benigna ed energica. Ci mandava avanti, velocemente.